alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jar. Sesta puntata. Zizi e io, arrampicate sul davanzale della finestra della stanza dei giochi, mostriamo il sedere ai maleducatissimi figli dell'ambasciatore svedese di fronte a noi. Pescivendole al mercato lo esibivano di solito ai clienti che non apprezzavano il loro pesce. Non è fresco? Guarda se questo ti sembra più fresco. Di là vengono ad avvertire e siamo sgridate. Non erano buone maniere le nostre, pensare che quei villanacci di svedesi, pieni di aria come sempre gli svedesi, ci provocavano in continuazione. Chi non aveva buone maniere? Beh, oltre alle pescivendole, al postino, al macellaio, anche i cocchieri russi che si soffiavano il naso con le dita, e i contadini del corridoio polacco che si vedevano dai finestrini del treno nelle loro sporche casupole e i preti russi che escono in processione solenne dalla loro chiesona a grandi cupole dorate coperti di paramenti viola e ricami d'oro, ma che senti come puzzano, non si lavano mai. La gente che non ha buone maniere mi incuriosisce molto. Non oso parlare con loro, ma cerco di capire come mai non rispettano le regole. Mi pare che vivano benissimo senza. Non li invidio, però sono poveri ed è brutto essere poveri. La cuoca e la cameriera parlano dell'esistenza di Dio. La cuoca dice che Dio è soltanto puro spirito e non si interessa dei fatti nostri. Sono invasa dal panico, ma non posso naturalmente sfogarlo in domande o parole. Non saprei adesso se tale sgomento fosse dovuto proprio al termine spirito, che sulle prime mi parve evocare un fantasma, o se fosse invece il piccolissimo Nur soltanto a gelarmi. Allontanava il Dio con una naturale tranquillità, la stessa con la quale la cuoca sfornava con mano sicura il suo famoso strudel, la stessa dell'autista, mentre mi racconta di quando aveva schizzato dalla macchina un cugino di mio padre, sterzando troppo velocemente su un mucchio di ghiaia, oppure di quando era arrivato, sempre sulla nostra macchina, alla stazione centrale di Riga viaggiando sui binari. Era sbronzo, i polacchi sono spesso sbronzi, e lo ammetteva anche, rideva dicendo che era sbronzo e che mio padre aveva dovuto pagare una multa salata per la faccenda della stazione centrale. Rideva pure ripetendo nel suo tedesco piuttosto sbagliato, ma non gliene importava nulla, che il cugino di mio padre si era rotto soltanto una gamba e un braccio. Un pomeriggio di sabato andiamo con la nostra governante ad aiutare sua madre che aveva traslocato. Si doveva incollare una tappezzeria a fiori rosa sulle pareti di una stanza che io trovai piuttosto piccola. Anche la madre della nostra governante era piccola, grassa e ciarliera. Le si sospettavano lontane origini meridionali, polacche insomma. In una bacinella c'era la colla calda. La piccola e vecchia signora ciarlava e rideva tutto il tempo. Era contenta della sua tappezzeria a fiori. Ero soddisfatta. Aiutavo a stendere la tappezzeria e mi piaceva vedere la parete ricoprirsi di fiori e diventare pulita e allegra. Avrei voluto andare tutti i sabati a incollare tappezzerie. Avrei voluto avere una piccola stanza tutta per me, in cui ci fosse anche, come qui, il fornello su cui cucinare. Tutto raccolto intorno a me, ben riposto, come avevo ben riposto in una cassettina di metallo che si poteva chiudere con un gancetto le poche cose che volevo portare via con me quando sarei fuggita in Italia. Noi si era lettoni perché eravamo nate a Riga. Anche mia madre, che era italiana, aveva un passaporto lettone perché aveva sposato mio padre. Siamo scritte sul passaporto lettone di nostra madre e a scuola, nella lezione di lettone, impariamo l'inno Dio salvi la Lettonia. Tutti gli anni in novembre si collocano per una sera una fila di lumini tra i vetri doppi. È la festa dell'indipendenza lettone. I lumini risplendono allargati sui vetri di tutta la città. Mio padre brontola che Ulmanis, il presidente della Lettonia, è un porco. A mio padre non piacciono i presidenti. Nel frattempo ho capito che Mussolini non è un corridore podista, ma il presidente dell'Italia. La mamma ci insegna una canzone di cui non comprendiamo le parole e che incomincia «Giovinezza, giovinezza». La canto volentieri perché è una canzone italiana. L'inno della Lettonia è lento e solenne, difficile da cantare da soli. Canto con piacere da sola, anche se non sono intonata come mia sorella. Canto giocando e canto camminando per il parco durante le passeggiate quando sono sicura che nessuno mi ascolti. Cantare per strada è molto maleducato. Tutte le mattine a scuola, allineate classe per classe nella grande aula dove a Natale si esegue la sacra rappresentazione della nascita del Cristo, fui sempre nel pubblico e non ebbi mai l'onore di essere neppure un angelo con le grandi ali cosparse di polvere d'argento. Cantavamo in coro, dopo la preghiera, un corale. Ancora a Torre Pellice ricantavo questi corali, seguendone le strofe sul libretto dei testi che avevo conservato. Molti erano di Lutero. Oggi ne ricanto qualcuno a Natale, quando sono sola in casa. Cantare ad alta voce insieme. Se non sei intonata, una compagna accanto ti copre con il suo tono giusto. Cantare in coro, allineate, tutte concordi. In classe cantavamo di solito vecchie canzoni tedesche. Un giovane sta per morire nell'alba rossa e un altro, giovane e coraggioso, è morto pure lui dopo aver abbandonato infedelmente padre e madre. Oh Strasburg, ma perché si muore per te? E perché allora infedelmente? E perché non scappa il soldatino e si ferma a cantare chiedendo al buon camerata se la palla viene da lui o viene dall'altro? Eppure anche il non capire dà grandi soddisfazioni se accompagnato dalla musica. Proprio incomprensibile, per esempio, il testo del corale è sbocciato un rosellino da una radice delicata con quel che segue. E chi è tra l'altro Iesse? Senza contare che si dovrebbe dire una rosellina. Comunque non importa, è bellissimo da cantare con le sue parole senza senso che si snocciolano una dall'altra salendo e poi scendendo in cascate. Cupi e ripetuti sono invece gli accordi del piano che si affannano dietro la galoppata del padre con il bimbo malato nel buio frusciare intorno a loro. Sta nascosto il re degli elfi, che non sia il re degli ontani. In realtà ha un nome dal suono misterioso a metà tra elfo e ontano. Non ho mai visto un elfo e forse neppure un ontano, ma proprio quel suono con la R dura in mezzo alla parola evoca un malvagio quasi elfo che nascosto tra le fronde fa morire i bimbi malati. La presenza del Erkonisch veniva dagli accordi del piano e invadeva lentamente la stanza, assai più reale di quella del presidente Ulmanis. E così veniva a me, cantando, la nostalgia della fuga che mi trascinava via, senza patria, né regole, verso nessuna meta, da sotto il tiglio nella cui scorza avevo inciso nomi cari e non nominati. I nomi non nominati, come il suono del pianoforte e il fiato ancora trattenuto del vento d'inverno quando sta per gettarsi vorticando attraverso la pianura innevata, mi attraggono e immergono in un'attesa segreta, più dei nomi nominati, sui quali devi sempre precisamente ragionare. Molti sono i nomi nominati, infatti, e si deve saperli tutti e tenerli bene in ordine e non perderli mai, come il passaporto. Se perdi il passaporto, vai in prigione. Sono lettone e sono cristiana, così mi hanno detto. Ci credo, anche se questi nomi me li devo tenere stretti come un oggetto duro nel palmo della mano. È un fardello che devo portare insieme alle altre regole. Sono lettone, ma parlo tedesco e non ho capito chi sia Gesù Cristo. Come ha fatto a finire sulla croce, diritto dalla cesta del presepe, cresciuto anche lui in una sola notte? Da piccolo ha una madre, Maria, da grande un padre che non è innominato, ma che è meglio non nominare. Ma chi lo ha crocifisso? Probabilmente l'altro innominabile, l'anticamente malvagio nemico dell'uomo. Un mattino entriamo nel Duomo, in cui il buio è altissimo sulle nostre teste. Dal pulpito il pastore parla a voce alta e sgrida con il dito teso un vecchio in mezzo alla folla, proprio accanto a me, appoggiato tutto tremante a un bastone. Sono divisa tra il timore di essere confusa con il vecchio, che il pastore creda che stiamo insieme, e un'immensa pietà per lui. Non capisco perché il pastore ce l'abbia proprio con lui, così vecchio e tremante, e desidero uscire. La notte, sotto il mio letto, sta nascosto l'altro innominabile nemico dell'uomo. Non credo affatto che sia nero e cornuto, come nella storia della nonna del diavolo che ho visto rappresentare in uno spettacolo per le scuole. Ho anche visto Max e Moritz uscire piatti piatti in forma di biscotti sulla piastra di un grandissimo forno, condannati a questa fine per le loro ripetute disubbedienze. Tutti ridono, io non rido, mi raccapriccia la loro forma umana spiaccicata. Non rido neppure quando vedo la nonna del diavolo strappargli un pelo di barba mentre lui dorme. Lui non è così, non ha le corna e la coda, ma è assai più spaventoso, coagulato in una sua corporeità irragionevole, come gli elfi e le fate. Non viene per punirmi. Per punirmi bastano gli adulti e i miei incubi. Viene perché deve trovare un posto dove esistere. Non ricordo da quando sta sotto il mio letto, forse da sempre. Dio non mi aiuta a scacciarlo, devo cavarmela da sola. Dio sta nel cielo e solo qualche volta mi sorride in una canzonetta infantile che dice: guarda quante nuvole vanno sulla grande volta del cielo, guarda quante stelle stanno nel grande, grandissimo mondo. Dio, il Signore, le ha contate, che non gliene manchi neppure una. A letto, con un lembo della manica del pigiama pizzicato tra due dita, ripeto la canzoncina, e da quel contare di Dio, ciò che non è possibile contare, questo lo so, mi sommerge come una sicurezza e mi addormento. Insieme s'addormenta lui sotto il mio letto. Il mio nonno lettone e la mia nonna russa sono ebrei. I miei nonni italiani, ma in realtà sono anche un po' francesi, sono valdesi. Mia madre è valdese. Alcuni lettoni, i più stupidi, sono cattolici. Ma è anche cattolica la zia Jo, che non è affatto stupida. Anche Petkevich, il nostro autista, è cattolico. I polacchi sono cattolici. I russi sono ortodossi, ma la mia nonna russa è ebrea. D'altronde i russi che stanno all'ambasciata sovietica non sono ortodossi, sono come mio padre, non hanno religione, sono cattivissimi e non lasciano passare nessuno sul marciapiede davanti al loro portone. Sarebbero capaci di spararti addosso. Pietroburgo l'hanno chiamata Leningrado e hanno fucilato lo zar con la sua famiglia. Anche lo zar non era però uno stinco di santo e a sua volta fucilava quelli che non gridavano viva lo zar. Era ortodosso. Fra tutte le religioni, quella ortodossa non è quasi una religione. Nessuno mi spiega la differenza fra ebrei e cristiani. Sono di nuovo dei nomi che devo accettare come sono. Mio padre è stato allevato da un pastore luterano. Da bambino era vivacissimo, un ribelle, diceva il nonno, e la nonna non se l'era sentita di allevarlo e così l'avevano mandato via, cosa che non aveva mai perdonato i suoi genitori, diceva mia madre. E a quel pastore luterano era persino affezionato, come poteva esserlo lui, diceva mia madre. Ciò nonostante aveva piantato grane alla mamma quando lei aveva deciso di mandarci alla scuola tedesca luterana. Aveva detto: sono ebree, che cosa le mandi a fare alla scuola luterana? Lo diceva per dare noia alla mamma. Non eravamo ebrei, eravamo state battezzate. Io a Torre Pellice a un anno, mio padre era stato del resto presente alla cerimonia, e mia sorella a 4 anni nel suo vestitino di seta rosa durante una vacanza allo Strand aveva scosso via dalla gonnellina le gocce d'acqua con mano impaziente. Quando si è battezzati non si è più ebrei, probabilmente è un passo avanti. Amo il mio nonno Mosè, che in casa chiamavano Morris. Adesso quando ne parlo dico il mio piccolo nonno. La mamma mi ha obiettato che il nonno non era affatto piccolo, forse mi appariva piccolo in confronto a mio padre. Il nonno aveva gli occhi nerissimi sotto folte sopracciglia bianche. Andavamo a casa dei nonni talvolta il sabato pomeriggio, giocavamo nello studio del nonno sotto la sua scrivania. La sera, quando restavamo a cena, c'era l'uovo al guscio di cui il nonno scappucciava la punta con un solo taglio. Il nonno ci raccontava di quando lui era giovane e voleva sposare la nonna. Lui era poverissimo, lei era ricca e aveva studiato in un collegio per ragazze nobili a Vitebsk. Il nonno, per poterla sposare, era andato in Siberia a commerciare pellicce. Divenuto ricco, aveva comperato la conceria e aveva sposato la nonna. Una volta il nonno ci porta un sacco di banconote di tutti i colori. «Giocate», ci dice. E poi ci racconta che quelle banconote bellissime lui le tiene a sacchi in soffitta, sono i suoi risparmi in rubli dello zar, adesso non valgono più nulla. Con il nonno gioco a contare, lui si diverte nel vedermi fare i calcoli così in fretta. Patrizia Zappa Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.